Nelle migrazioni climatiche i numeri purtroppo sono abbastanza preoccupanti e ci sono delle stime che ci dicono che da qui al 2050 ci saranno più di 200 milioni di migranti ambientali. Molti di questi migreranno sicuramente dal sud globale. Si immagina che le migrazioni saranno all'inizio interne, quindi si sposteranno all'interno dei propri paesi e già adesso vediamo che appunto raramente oltrepassano il confine. Quando lo fanno vanno in paesi confinanti perché da lì è più semplice poi eventualmente ritornare, perché queste persone in realtà desiderano soltanto ritornare da dove sono fuggiti, no? Nel momento in cui le condizioni lo permetteranno. Purtroppo non sempre questo è possibile perché di fronte a devastazioni ambientali di una certa entità, in quel caso non è proprio possibile il rientro ed è lì che scatta invece la necessità a quel punto di avere uno strumento giuridico che tuteli queste forme di vulnerabilità più estreme, no? Quando non è più possibile ritornare al proprio paese perché questo diventa inabitabile. Ed è lì che c'è, secondo me, una grande lacuna giuridica perché al momento non c'è nessuno strumento per proteggere le persone che si trovano appunto in questo stato di estrema vulnerabilità. E infatti volevo farti una domanda proprio su questo, perché anche recentemente, insomma, nelle varie crisi migratorie, emergenze migratorie che cercavano di raggiungere l'Europa, poi il fatto che siano emergenze sarebbe da discutere, ovviamente, la questione climatica, la questione ambientale non era un argomento che permetteva alle persone di ottenere lo status di rifugiato. Quindi è un problema globale questo. Sì, è un problema globale. Tra l'altro in Italia si è visto che negli ultimi anni l'80% di chi arriva in Italia appunto dal Nord Africa migra per motivi climatici, nonostante appunto questi non siano ancora del tutto riconosciuti. Però è vero che il caso italiano è un caso particolare perché in realtà il primo caso di migrante climatico c'è stato nel 2015 e c'è stato questo caso, tra l'altro proprio a Bologna, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto le motivazioni ambientali ed è stato un caso il primo in Italia e quindi in quel caso è stato riconosciuto a questo ragazzo pakistano, si chiamava Rashid, che è stato difeso dall'avvocato Alba Ferretti, che lavora appunto a Bologna, è stato difeso riconoscendo appunto le motivazioni ambientali con le quali ha ottenuto il permesso di soggiorno in Italia, che poi è stato convertito come permesso di lavoro, quindi poi ha potuto ricostruire la sua vita a Parma. Però appunto è stato un unicum inizialmente in Italia perché si è utilizzata una normativa precedente ai decreti Salvini, che infatti hanno smantellato subito la protezione umanitaria, che aveva questa clausola di salvaguardia che era abbastanza ampia, quindi ha permesso al giudice di interpretarla in maniera estensiva e riconoscere le motivazioni ambientali, cosa che normalmente non viene quasi mai fatta, perché le motivazioni ambientali poi ricadono come motivazioni economiche e quindi vengono considerate come migranti economici. Invece in quel caso il giudice valutò la situazione con molta elasticità e infatti i decreti Salvini e i decreti di sicurezza hanno distrutto praticamente questa protezione umanitaria come clausola di salvaguardia e l'hanno sostituita con una serie di, diciamo, di permessi un po' più stringenti, un po' più difficili, insomma, da utilizzare. La Lamorgese ha fatto un ulteriore intervento nel 2020 e ha consentito quindi di riconoscere invece il permesso di soggiorno per calamità. Questa è una cosa che rende l'Italia in questo momento all'avanguardia in Europa, perché gli unici strumenti che erano stati formulati in Europa fino al 2015 li avevano la Svezia e la Finlandia, che avevano riconosciuto questa forma di protezione umanitaria per chi fuggiva da catastrofi ambientali, ma le hanno ambedue abrogati questi permessi di soggiorno, sia la Svezia che la Finlandia. Quindi al momento l'Italia è all'avanguardia da questo punto di vista. Il problema è che le questure continuano ad applicare i decreti Salvini, quindi pur avendo una legislazione che ci porta all'avanguardia perché riconosce il permesso di soggiorno per calamità, siamo ancora un po' indietro perché le questure continuano ad applicare i vecchi decreti. Spesso, come dire, i cambiamenti climatici colpiscono di più le popolazioni di paesi che hanno meno responsabilità nell'alterazione del clima. Quindi servirebbe anche una responsabilità, come dire, da parte dei paesi più industrializzati, come forme di protezione di persone che subiscono maggiormente danni che non hanno provocato loro. Certo, qui metti proprio il dito nella piaga, nella questione proprio di giustizia climatica vera e propria, no? Il fatto che ci siano delle responsabilità differenti è evidente a tutti, e purtroppo questo viene sempre ricordato nei trattati internazionali, quindi si parla di responsabilità comune, però differenziata, con differenti capacità anche di risoluzione del problema, però poi all'atto concreto non vediamo un grande interesse, no? Da parte dei paesi più sviluppati, e direi soprattutto dall'Europa, che su questo tema è ancora molto molto indietro. Invece mi sento di ricordare che l'Africa, per esempio, invece è uno dei pochissimi paesi ad avere uno strumento invidiabile, secondo me, che è la Convenzione di Kampala, che riconosce invece la tutela per, appunto, per gli sfollati interni. Quindi quello sarebbe sicuramente il primo passo che dovremmo adottare anche in Europa, come primo passo veramente per il riconoscimento di questa nuova categoria, cominciare da quello e poi piano piano muoversi per aiutare queste persone che fuggono dal clima, altrimenti rimarranno purtroppo senza protezione e finiranno come migranti irregolari. E chiaramente questa cosa ci tocca molto come problema proprio di giustizia e di equità, perché sono spesso, come ricordavi tu giustamente, paesi che hanno contribuito per, non lo so, il 2%, forse 3% del totale delle emissioni globali, e questa è sicuramente forse l'ingiustizia più grande, no? Se pensiamo anche alle isole del Pacifico, che sono quelle che rischiano davvero di scomparire, e quelle veramente non hanno quasi praticamente nessuna responsabilità, eppure stanno scomparendo, stanno proprio rischiando di rimanere sommerse dall'acqua.